America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Pang Pong, un'aria delle più famose del Turandot di Puccini, un'opera dedicata alla Cina, una principessa gelida cinese. L'America è immersa nello studio della Cina in questi giorni perché domani comincerà la visita di Stato del presidente Hu Jintao. Comincerà domani perché domani sera, al suo arrivo alla base aerea di Andrews, il presidente cinese sarà accolto dal vicepresidente Biden. Insieme si recheranno nella capitale, ma poi Hu Jintao lascerà Biden per andare direttamente alla Casa Bianca per una cena privata con il presidente Barack Obama. Sarà una cena di lavoro con il segretario di Stato Hillary Clinton e con un paio di esperti del National Security Council. Basta una cena molto piccola, 3-4 persone. Si cercherà di discutere a ruota libera su quello che è il futuro delle relazioni fra i due paesi da qui ai prossimi 15-20 anni. E dunque l'atmosfera deve essere raccolta. La cena avverrà nella Old Family Room della Casa Bianca. La voce di Hu Jintao, il presidente cinese, è stato un interlocutore non facile per Barack Obama, un interlocutore enigmatico. Quando ci fu un viaggio nel novembre del 2009 a Pechino, seguì quel viaggio al seguito della Casa Bianca. Hu Jintao approfittò della situazione. Barack Obama era al suo debutto, era un presidente pronto a tendere la mano, ad avere dei rapporti, delle relazioni aperte e trasparenti con i suoi interlocutori. Ebbene, Hu Jintao raccolse ovviamente tutto quello che Barack Obama poteva offrire, ma in cambio restituì molto poco. Siamo arrivati al dunque, siamo arrivati all'incontro. È un vertice molto importante questo, perché siamo in una situazione di svincolo. La Cina si prepara a diventare la potenza economica mondiale numero uno, supererà gli Stati Uniti per prodotto nazionale lordo da qui al 2018-2019, sembra una data lontana nel tempo, non lo è, stiamo parlando di 7, 8, forse 9 anni, e dunque occorre prepararsi a questo cambiamento strutturale di cui già in qualche modo in Europa soffriamo le conseguenze. Our common interests lie in supporting a more open global trading system with a fair balance of benefits and responsibilities in which countries are able to compete on a level playing field. Our two countries have benefited greatly from open trade and investment, and we welcome a more open China today. In un briefing riservato che ha fatto nel corso del weekend, il segretario al Tesoro Tim Geithner ha dato un'idea del posizionamento americano e ha in qualche modo parlato in modo più libero rispetto al discorso che aveva fatto la settimana scorsa. Ha detto che dal punto di vista americano ci sono già dei passi in avanti importanti nella rivalutazione dello yuan, perché al di là della rivalutazione in termini nominali dello yuan del 3% circa che c'è stata da quando la scorsa estate la Cina annunciò che ci sarebbe stato un rafforzamento appunto dello yuan, c'è stato anche un movimento in termini reali che secondo Geithner è quello che conta di più. In Cina in sostanza c'è stata un'inflazione superiore a quella che si è registrata negli Stati Uniti, e dunque la combinazione dell'inflazione sullo yuan più la rivalutazione in termini nominali, spiega Geithner, ci consente di poter valutare su base annuale l'apprezzamento dello yuan in termini reali, che è poi quello che conta, sottolinea il segretario al Tesoro, di circa il 10%. Se consideriamo che ci fu già un apprezzamento di circa il 20% nell'ultima tornata, ecco, da qui ai prossimi due anni, andando avanti a questi ritmi, beh, dice, forse qualche cosa chiaramente comincia a muoversi. Non è abbastanza, occorre stimolare la domanda interna cinese, occorre che Pechino si muova con maggiore determinazione verso l'apertura della sua valuta, perché in quel modo potrà evitare delle ripercussioni inflazionistiche che altrimenti ci sono nel momento in cui la valuta è controllata molto strettamente